La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo giovedì 26 di maggio 2016, grazie per l'ascolto naturalmente in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, perché lo sapete se siete ascoltatori fedeli o anche casuali, ma moltissime di queste trasmissioni nascono esattamente dalle vostre segnalazioni, richieste, osservazioni. E devo dire la verità, anche l'idea di questa viene da una lunga coda di mail con le quali ho avuto scambi con molti di voi ascoltatori. Gli scambi sono cominciati quando, a dire la verità, non alla versione di Oscar, ma attenti a noi due, la trasmissione la mattina che conduco insieme a Alessandro Milan, ci siamo occupati delle vicende qualche settimana fa del liceo Virgilio a Roma. Lo ricordo a tutti, il liceo Virgilio a Roma, la vicenda riguardava il fatto che il dirigente scolastico avesse chiamato le forze dell'ordine perché c'era spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del perimetro scolastico, insurrezione dei docenti, alcuni, la maggioranza assoluta con il dirigente scolastico, ma soprattutto dei genitori che hanno animato una lunghissima coda di polemiche anche con noi conduttori, dicendo che l'impostazione della trasmissione era completamente sbagliata, dare la voce al dirigente scolastico era intollerabile, il dirigente scolastico aveva violato regole fondamentali del fatto che le forze dell'ordine devono essere l'ultima stanza, ma in caso proprio di reati di sangue chiamarli all'interno del perimetro scolastico, perché questo significa usare le armi del terrore, non quelli dell'educazione. Insomma, la cosa ci ha molto colpito, e ha molto colpito me, perché io ho risposto poi ad alcuni genitori che naturalmente con tono durissimo mi insegnavano l'ABC del mestiere, dicevano che io dovrei stare zitto, dovrei essere deportato in Siberia, eccetera eccetera. C'erano varie argomentazioni, alcuni erano anche molto politicizzati. Noi non avevamo capito il primo giorno, a dire la verità, che tra i genitori di quel liceo che hanno poi inscenato tutto questo, alcuni non è che sono molto politicizzati, fanno politica di professione. Ma la cosa che ci colpì molto a me, Alessandro Milan, è veramente questa semplice sensazione, anche da padri se volete, prima che da giornalisti: mio Dio. Certo, quello è un liceo particolare, un liceo dove si concentrano figli di, però insomma ogni tanto bisognerebbe che ce ne occupassimo di quali sono i valori condivisi delle comunità scolastiche, di quanto è complicato il mestiere dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, a fronte di questa crescita di disconoscimento pubblico, di contestazione assoluta per le vie giudiziarie oramai, perché siamo a questo, i voti, cioè c'è gente che va dai carabinieri e fa gli sposti ai magistrati per i voti dei figli. Ecco, scusate, ma quella vicenda e soprattutto la coda di mail che è continuata per lungo tempo mi ha indotto a fare una trasmissione con oggi esattamente dedicata ai temi del mondo della scuola, ma su questo taglio qua. La questione è proprio delle difficoltà di rapporto, di compito, di funzione e anche, per così dire, di attribuzione di ruoli, quando poi lo Stato cosa fa? Si sana i precari e poi si inventa il bonus 500 euro, però sul salario di produttività come sarà? Discussione, perché ne abbiamo fatto una trasmissione su questo, anzi due, la sperimentazione di 3 anni, vedendo come ogni singolo istituto si organizza, quindi senza dare criteri chiari all'inizio, però una sperimentazione secondo me accettabile e apprezzabile, però anche qui con tantissime realtà italiane in cui a macchia di leopardo emergono tanti aspetti che non sono molto chiari, per così dire, anzi con molti istituti in cui i docenti dicono noi siamo contrari perché questa l'attribuzione di salario di merito disconosce i valori fondamentali dell'offerta formativa, fuori questi criteri aziendalistici dalla scuola e così via. Allora, a volo d'uccello, me ne rendo conto, oggi trattiamo un po' di questi argomenti che hanno a che vedere, come vedete, con gli equivoci molto forti, sia nel rapporto tra chi poi è nelle scuole, negli istituti e gli studenti, i genitori, sia verso l'alto, con la politica che poi annuncia grandi cose e in buona sostanza poi dice beh adesso arrangiatevi, se posso usare un'espressione un po' brutale. Allora, per parlare di queste cose abbiamo scelto due ospiti a cui sono molto grato per il tempo che ci danno. Innanzitutto un coordinatore regionale degli ispettori del MIUR, cioè un dirigente territoriale come si chiamano oggi, quello che un tempo si chiamavano i provveditori nella scuola di vecchio ordinamento, i provveditori scolastici di Brescia, Mario Maviglia, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. E Adolfo Scotto Di Luzio, a cui ogni tanto ricordiamo, che insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo e che è autore di Senza Educazione, i rischi della scuola 2.0 per il Mulino, e che anche lui si occupa di questi temi da una vita. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, partiamo con Maviglia. Posso chiederle che cosa pensa alla luce della sua esperienza del fatto che i responsabili dell'offerta formativa, dagli insegnanti fino ai dirigenti, sempre più incorrono in impugnative giudiziarie per i voti o per le bocciature date ai figli? Sì, questo è un fenomeno abbastanza diffuso ormai, nel senso che ogni qualvolta si ricorre alla cosiddetta bocciatura si rischia di comparire poi davanti al giudice. C'è un aspetto positivo in questo, tra virgolette, un aspetto negativo evidentemente. L'aspetto positivo è che comunque c'è una certa attenzione verso i temi della scuola, magari esplicitata, agita in maniera sbagliata da parte dei genitori, però insomma sembra che ci sia un po' più di attenzione, quindi questo vuol dire che i genitori sono comunque attenti ai processi educativi, ai processi di apprendimento. Quindi lei, per così dire, la Sì. prende con filosofia. No, aspetta, questa è la prima parte, diciamo. L'aspetto negativo evidentemente è che tutto ciò spesso, ahimè, sempre più spesso, si traduce in una sorta di invasività, di invasione di campo, di un entrare un po' facendolo, diciamo, lo sgambetto, peraltro anche senza, diciamo, utilizzare tutti i filtri che la vita scolastica propone, per cui oggi basta che tu dica qualcosa di sbagliato o di non corretto nei confronti dei ragazzi, e questo per carità può succedere, il giorno dopo ti ritrovi la lettera dell'avvocato che ti intima di fare questo e quest'altro. Una volta magari si andava dal docente o dal preside a dire guardi che è successo questo e quest'altro. C'è poi un altro aspetto, se vogliamo un po' fare un po' di sociologia, forse un po' spicciola, però insomma io vedo che questo succede. Oggi le famiglie fanno sempre meno figli, questo è un dato oggettivo, demografico, e quindi come dire, si concentra sull'unico o sui pochi figli che si fanno, un po' una serie di attenzione che una volta venivano distribuite su 4, 5, 6, 7 figli. Sostanzialmente, se la riuscita della famiglia in un modo o nell'altro c'era, se non c'era in uno c'era nell'altro. Adesso, come dire, c'è questa attesa forte nei confronti del figlio, dei pochi figli che si fanno, e per cui viene caricato fortemente di ansia, secondo me, il risultato scolastico. Ecco, mi spiego in questi termini e solo in questi termini, perché sennò non trovo altre giustificazioni. Questo ricorre addirittura ai carabinieri perché la scuola ha dato un 5. Una volta, se tu portavi un 5 a casa, come minimo ti portavi dietro uno sceffone da parte del padre o della madre che Già. ti dicevano: ma che cosa è successo? Ma cosa hai combinato? Oggi ti arriva appunto alla denuncia perché hai dato 5. Questo è il segno un po' dei tempi. Però, voglio dire, quel signore dei tempi, rispetto, io sono ormai un ferro vecchio, però cresciuto negli anni 60, tutti quelli con cui ho condiviso il mio percorso formativo nella scuola pubblica avevano, non ricordo eccezioni, dei genitori, naturalmente il mio era un ambiente molto proletario, quartiere operaio e così via, però che in maniera ferrea di fronte ai tantissimi che purtroppo erano indietro, erano ripetenti, cioè sto parlando di un grande disagio sociale. Io sono cresciuto in un quartiere operaio all'epoca in cui c'erano ripetenti nelle scuole elementari che avevano 14 anni, per essere chiari, c'erano le sezioni differenziali, come si chiamavano allora, un altro mondo rispetto alla scuola di oggi. Detto questo, le famiglie erano, i genitori erano ferreamente dalla parte, cioè non esisteva, dalla parte degli insegnanti, mi sono mangiato la parola, cioè non esisteva il fatto che un genitore andasse lì, protestasse verbalmente o magari alzasse le mani e gridasse, insultasse, e tantomeno con l'avvocato. Cioè, è un problema evidentemente anche di mutata percezione, ma in termini radicali, dal punto di vista sociale, non dico del rilievo della funzione del docente come se fosse il vecchio sindaco, parroco, farmacista, sto dicendo della diffusa convinzione che è uno dei valori di una comunità che si tratti di una figura fondamentale e che sappia fare il suo mestiere e che sappia valutare, non è che è un matto che si mette a distinguere per colore dei capelli o per simpatie. Allora, in questo, posso chiedere a Di Luzio, non è anche un po' colpa del fatto che per tanti decenni ci siamo occupati, adesso lo so che è un attacco, però abbiamo delegato un po' troppo la scuola ai pedagogisti? Con me sfondo una porta aperta, quindi non lo considero un attacco. Non so, anche la delega ai pedagogisti andrebbe spiegata perché è successo, quindi ho l'impressione che questo tipo di, la ricerca di questo tipo di spiegazioni sia prigioniera di un circolo È un vizioso. loop, che se un gatto È si morde la un coda. sì, il famoso al gatto che si morde la coda. Io credo che questi fenomeni riportino, diciamo, sì, a una pluralità di cause. E poi anche nella società ci sono movimenti contrastanti, perché accanto all'inciviltà dei genitori che aggrediscono gli insegnanti o che usano in maniera intimidatoria avvocati, tribunali amministrativi regionali, ci sia poi anche un fortissimo movimento di ritorno all'ordine, diciamo così, che vale tanto nella scuola pubblica quanto nella scuola privata. Il punto è proprio questo, è che la scuola pubblica come istituzione nazionale ha smesso di esistere ed è diventata un'istituzione privatizzata, pur restando finanziata dallo Perché Stato. Dice privatizzata? È stata privatizzata perché ognuno è stato autorizzato a pensare alla scuola come la scuola che vorrebbe, diciamo così. E quindi i genitori si sono presi la scuola, le famiglie si sono prese la scuola di fronte ad un'istituzione che ha perso autorità, ha perso, diciamo sì, quella... Beh, io però in questo direi che è la sconfitta dello Stato etico con il suo programma gentiliano. Per me è una cosa positiva, non negativa. No, non so, perché noi abbiamo avuto una lunga stagione di scuola democratica che ha, diciamo così, tra il 1950-51 e il 1980-85, grosso modo, fatto fare a questo paese un grandissimo balzo per in avanti. Assolutamente. E quella scuola esercitava la sua funzione sulla base di un fortissimo mandato politico. Sì. Cioè, il paese, l'Italia, gli italiani erano tutti, diciamo così, concordamente orientati verso una direzione. Cioè, l'Italia doveva uscire dalla sua storica condizione di arretratezza. Che era tipica di una società ancora agropastorale per tanti versi. Sì, era un'arretratezza materiale, naturalmente era anche un'arretratezza culturale. Questo lungo processo, diciamo così, è giunto a compimento tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Negli anni 90 sostanzialmente si universalizza l'istruzione secondaria superiore e grosso modo il 100% dei giovani in età scolare sta o si presume stia in un'aula di scuola secondaria superiore. Da quel momento in poi noi non sappiamo più che quale missione affidare alla scuola e di conseguenza questo è il punto. Allora, io su questo sono d'accordo con lei, ma perché lo... La missione nevasta di questi ultimi 20 anni. Io perché penso che lei abbia ragione? Perché però penso che ci sia un, si chiama mismatch in termini tecnici, cioè c'è un grande, ci sono questioni, fili che non vengono collegati, come devo dire, perché esaurito il grande compito etico, io stesso al primo giorno di scuola elementare ho sfilato in una palestra nel mio quartiere operaio con la bandiera italiana, l'inno nazionale, dopodiché c'era Bella Ciao, per me era indimenticabile perché nel mio quartiere funzionava così, era una piccola repubblica socialista sovietica dove PC prendeva il 70% dei voti, Bella Ciao il primo giorno, però era la manifestazione concreta dell'evoluzione che nel tempo aveva avuto la comunità scolastica a Torino dai tempi di Cuore di De Amicis. Non c'erano più i ritratti dei sovrani, ma c'erano queste cose qua. Questa roba qui non c'è più. Io dico anche che per molti versi è un bene, ma poi la capacità di vedere che noi abbiamo bisogno di percorsi formativi che non portino ai risultati disastrosi di giovani che anche ottenuti pezzi di carta universitari, tanto non vengono riconosciuti A, dalle aziende, B, quindi entrano tardissimo sul mercato del lavoro, C, continuano ad avere un'istruzione duale professionalizzante vista come una cosa, dopo la licenziazione e l'universalizzazione di massa, come se fosse una cosa di serie B, mentre è la grande forza di paesi che capiscono che bisogna avere periti ottimamente formati, lauree professionalizzanti. Il 40% di chi frequenta università in Germania frequenta università professionalizzanti, in cui l'offerta formativa, cioè i curriculum, i corsi, gli esami, sono decisi in vista di percorsi che chi si iscrive lì vuole fare, perché quelli sono riconosciuti per ottenere poi posti di lavoro in ogni filiera, settore e così via, fino ad avere la ricerca universitaria col Fraunhofer, che ha 120 sedi specializzate in ogni sede distrettuale della Germania, che aderiscono tanto alle vocazioni produttive dell'economia del mercato del lavoro, che è al 70% finanziato da privati, al 30% finanziato dallo Stato, e tutti i progetti di ricerca più avanzati in realtà sono decisi e scelti più dal privato che dallo Stato, che pure ne dà una grande egida di grandissimo istituto pubblico. Quindi sto parlando di un sistema proprio completamente diverso dal nostro. La verità è che quando Scotto Di Luzio dice: abbiamo perso la missione, ma noi non abbiamo, abbiamo perso soprattutto la missione di utilizzare la formazione in vista di dare delle skills, cioè delle capacità, delle abilità concrete. Allora, questa per me è la tragedia vera, perché io poi parli con un mucchio di giovani e dicono: sì, io mi sono laureato. E dico: ma ti sei laureato guardando che cosa? Le mie vocazioni. Ma hai incrociato con i dati? No, alla scuola e all'università non mi davano gli strumenti per farlo. E adesso gli dico, e adesso allargano le braccia, dico, call center. Allora, questo mi sembra uno dei problemi di fondo, e mi colpisce che i genitori si occupano di tutt'altro piuttosto che di questo. Forse mi sbaglio, torniamo tra un minuto esattamente chiedendo a, a Mario Maviglia e Adolfo Scotto Di Luzio cosa pensano di questo, che secondo me è una frattura profondissima tra il sistema della formazione pubblica nel nostro paese e la realtà del mercato del lavoro italiano, europeo, internazionale nei grandi numeri. Certo, c'è anche la generazione Erasmus, però non possiamo non vedere che in gran parte del paese è un'eccezione assoluta. Nei grandi numeri il pezzo di carta purtroppo è un'illusione per i giovani. La versione di Oscar. Eccoci tornati in questo giovedì 26 maggio, ci stiamo occupando di scuola formazione, con noi Mario Maviglia, che è il coordinatore regionale degli ispettori del MIUR e dirigente territoriale di Brescia, e Adolfo Scotto Di Luzio, che insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo. Maviglia, lei ci si ritrova in questa perdita di missione di cui parlava Scotto Di Luzio e nella mia accusa, per così dire, di non avere però la capacità di costruire percorsi formativi che guardino al mondo reale, oppure mi sbaglio io secondo lei? Purtroppo devo dare ragione, nel senso che da noi in Italia della formazione professionale, che come sapete è di competenza delle regioni, finora se n'è occupata più la magistratura che la pedagogia, per gli scandali, sperperi e quant'altro. E per quanto riguarda invece l'alternanza scuola-lavoro, è solo con la legge 107, con la buona scuola, che è entrata, diciamo, a pieno titolo nel nostro panorama giuridico, scolastico, coinvolgendo anche i licei che prima ne erano esclusi. Quindi si sta cercando di recuperare, diciamo così, il tempo perduto attraverso queste forme, che vedremo nel tempo se effettivamente daranno i frutti che si spera diano, anche se devo dire il rapporto con il territorio è fondamentale in questo campo, soprattutto con le aziende. Però non lo devo dire a lei, Maviglia, stiamo parlando di anche il potenziamento che c'è nella buona scuola da 200 a 400 ore, sono dei peanuts rispetto al fatto di codefinire con imprese i percorsi formativi, perché a questo c'è ancora un blocco totale, perché si dice no, fuori l'azienda dalla scuola, come se poi questo non si pagasse amaramente. Cioè, gli iscritti alle ITS di nuovo tipo sono poche migliaia in Italia, cioè, mentre secondo me quello dovrebbe essere il modello generale per l'istruzione professionalizzante nel canale secondario, sto dicendo. Ma credo che sia un problema complessivo, appunto, nel senso che chi sceglie la formazione professionale da noi, detto in termini aulici, è uno sfigato, esatto. È ovvio, cioè, non esiste, cioè, si pensa che la formazione professionale sia da destinare a coloro che non hanno altre chance, fondamentalmente al proletariato della cultura, dopodiché continuiamo ad avere pacchi di migliaia di iscritti a giurisprudenza, auguri, visto il numero di avvocati. Esatto, quindi la cultura del lavoro ancora nella nostra scuola di fatto non c'è, si sta cercando di costruirla, però viene vista con una certa diffidenza, questo è fuori dubbio, perché d'altro canto nell'immaginario collettivo la scuola secondaria superiore in particolare è il liceo classico prima di tutto, e poi man mano a scendere gli altri licei fino ad arrivare all'istituto professionale, e l'ultimo strato, diciamo, formativo e più negletto è la formazione professionale. Questa è la graduatoria, diciamo, la classifica, per cui è un problema generale, ripeto, scardinare questi archetipi non è così semplice. L'alternanza scuola-lavoro certo rappresenta sotto questo profilo un tentativo che non va ad incidere profondamente nella struttura, diciamo così, scolastica. Da modo però i giovani sono fatto di confrontarsi con ambienti e contesti di lavoro effettivi e magari di capire meglio quali sono le loro propensioni. Ripeto, staremo a vedere se questo nel medio tempo funzionerà. Io credo che sia una sfida che vada raccolta all'interno di una organizzazione scolastica così definita. Ma all'interno di un'organizzazione scolastica, adesso io chiedo a Scotto Di Luzio, io vedo i problemi, anche la buona scuola è stato un problema più che altro sindacale, e lo dico con profondo rispetto per le decine e decine di migliaia di precari. Abbiamo dedicato un mucchio di trasmissioni al loro tema, alla scelta sciagurata della politica italiana per decenni di creare questa dipendenza e promesse a ogni turno elettorale, e questa è la realtà per cui poi siamo stati chiamati per le orecchie dall'Europa a regolarizzarli. Però poi vado a vedere il salario di merito, il dibattito del salario di merito. Noi abbiamo ospitato tantissimi dirigenti istituto che ci spiegavano: guardate, i nuovi poteri attribuitimi dalla legge, qua io ho la maggioranza dei docenti e sindacalizzati che sono contrari all'utilizzo delle fasce differenziate, non so come fare, io posso scegliere, io mi espongo a delle cose terribili e non voglio creare nella mia scuola la guerra civile. Questo è Mario Maviglia, quello che abbiamo raccolto noi, ma in fior di regioni, in Emilia Romagna, Toscana eccetera, cioè nella parte, per certi versi, visti i risultati alla mano e i risultati anche OCSE PISA, la parte anche più avanzata dell'offerta formativa italiana, ma con una resistenza assoluta persino a quel po' di salario di merito che è questa sperimentazione che inizia triennale. I dati che ha lei invece che cosa descrivono, Maviglia? È molto curiosa, perché gli insegnanti sono degli erogatori di valutazione. Ogni giorno a scuola si consumano, si allestiscono momenti valutativi, quindi gli insegnanti sono coloro che creano valutazione quotidianamente, salvo sottrarsi o cercare di sottrarsi alla valutazione quando li interessa. E allora questo è curioso, perché dicevo, c'è un elemento, come dire, quasi nel momento in cui si agisce alla valutazione c'è un elemento punitivo, e quindi vuol dire che gli insegnanti puniscono attraverso la valutazione gli studenti, altrimenti non si capisce perché valutiamo gli altri e non consentiamo che siamo noi stessi a essere valutati. Quindi c'è un problema culturale, secondo me, di fondo, perché gli insegnanti non sono stati mai abituati ad essere valutati. In realtà la valutazione c'è ancorché implicita, perché se lei chiede in giro ai genitori, agli studenti, ma questo sì, ma vede che è implicita, no? Quali sono i docenti che funzionano meglio, glielo sanno dire. Ho capito, però è il problema che non si rende istituzionalmente esplicito ciò che resta implicito, ma che poi determina le cose reali, come il mercato del lavoro e quindi la percentuale altissima di disoccupazione giovanile, di net, di gente che oramai né studia né cerca un lavoro, tanto dice è inutile fare entrambe le cose. Quindi lei mi dice sì, è una questione culturale. Il problema è che per le trasformazioni culturali servono i decenni. Sì. Ma il problema è che però la top down dalla politica di dire scusate, qua bisogna mettere un set nuovo di criteri che accetti l'idea che a quel punto ovviamente c'è l'insurrezione nelle strade, l'insurrezione dico, è questo che manca, perché non c'è stata neanche sulla buona scuola su questo. Oppure secondo lei, Scotto Di Luzio, io sono troppo estremista nelle mie visioni? No, questi sono discorsi che in questi anni si sono fatti e naturalmente esprimono questa ricerca di questa nuova scuola che tutti vorrebbero trovare, ma che nessuno è riuscito ancora con precisione a identificare. Il problema è che però io vorrei chiedervi, ma lo dico diciamo così come, certo, come contributo alla riflessione, che cosa significa chi è il buon insegnante e di conseguenza come si fa a valutare un insegnante? Cioè, che cosa chiediamo all'insegnante per poter dire tu sei un buon insegnante e di conseguenza vai premiato? Ma la mia risposta, io ho fatto trasmissioni illustrando le diverse metriche che nei diversi ordinamenti anglosassoni come europei vengono utilizzati per dare una risposta concreta. Metriche note ex ante e valutate ex post da indipendenti, non dai colleghi o dai docenti, e quindi ci sono le metriche, lo sa meglio di me. Naturalmente su questo ci sono anche dei dibattiti molto accesi, altro che... in America. Come soprattutto no? Perché questo manda in frantumi la comunità scolastica, e poi pone una questione: quando noi abbiamo diciamo così valutato un insegnante come un buon insegnante, che ne facciamo degli altri? E soprattutto cosa diciamo ai genitori cui tocca diciamo così il destino? Questo lo capisco. Un impianto fortemente burocratizzato, le scuole non hanno la possibilità diciamo così di liberarsi degli e questo lo capisco, però il problema è che noi in questo modo rimaniamo incapaci di saper graduare ciò che il mercato poi sceglie. Comunque, grazie a Mario Maviglia, grazie a Adolfo Scotto Di Luzio. Continuate con la 24.